305 Fahrenheit, pollici attonici sulle ciglia del mio sopracciglio. Scivolo, no, no, no. Comincio a non pensare a te. Passato scelta one on two, sogno di un futuro di sole tardi signorina da marito, Katia Cognac! Il nostro coreografo, Jimmy Muzzi! Alla chitarra, Gingere Falca! E adesso, signori e signori, i musicisti, la parte più importante della serata, con noi per fare un grande arrangiamento dei pezzi, al contrabbasso, Giulio Boschi! Al pianoforte, Giorgio Lauchi! Signori, un applauso per Levanta! Il nostro tecnico di stasera, Abi Battocci!